La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Ben ritrovati amici alla Rosa Purpurea, la nostra ora settimanale di cinema qui su Radio 24. Comincia l'alta stagione cinematografica, cominciano i film che tirano la volata al Natale. Noi andiamo a riassumere i contenuti di questa puntata nei nostri titoli di testa. Arriva l'uomo nero. Sergio Rubini parla alla Rosa Purpurea del suo nuovo film con Valeria Golino e Riccardo Scamarcio. Il Dickens di Natale e Christmas Carol sugli schermi con un Jim Carrey tridimensionale. Cercando Eric, trovi Cantona. Il popolare ex calciatore francese è l'amico immaginario nel nuovo film di Ken Loach. Biancaneve e i sette nani torna nel suo massimo splendore, il primo capolavoro animato Disney, restaurato e in Blu-ray. E cominciamo quindi con questo menù ricco e variegato. Dicevamo, noi vogliamo concentrarci innanzitutto sulla principale proposta italiana, L'Uomo Nero di Sergio Rubini con Riccardo Scamarcio e Valeria Golino. Avete sentito, avevamo annunciato la presenza in diretta di Sergio Rubini in questa trasmissione, purtroppo un minuto prima di andare in onda Sergio Rubini ci ha avvisato che non poteva più essere nostro ospite. Fa niente, gli vogliamo bene lo stesso e andiamo avanti con questa prima clip per capire un po' l'aria che si respira nel film. Ernè, scusami, non posso, ma ho un'indisposizione allo stomaco, scusa. Ernè, l'indisposizione passa, mentre se oggi non vieni, a me il dispiacere non mi passa più. Tu, Frank e Gabriele, siete tutto quello che ho, e soprattutto tu, che potresti essere mio padre. Come mio padre? Vabbè. Poi gli dici, mio fratello maggiore. Già non andrà così, se permetti, scusa. Fammi fare la figura di un che c'ha la famiglia. Mi dispiace, ma proprio questa pesantezza dallo stomaco, da qua, guarda. Senti, poi da dopo e mi arriva fino qua, la cervicale, senti. Ancora, con sto quadro, ancora. Ma mi trompi. Stai ancora a pensare al quadro. Ernè, ma lui non hai capito niente. A quel di questo fotoritratto non gliene frega niente. Tu gli puoi portare pure la Gioconda di Giovanni Pascoli. Sembra una dischia, una schifezza. E lo sai perché? Non ti vogliono dare la soddisfazione. Ecco, abbiamo ottenuto questa clip un po' più lunga perché riassume un po' tutte le suggestioni di questo film, il dolce, l'amaro, le risate, le lacrime della vita di Ernesto Rossetti, interpretato appunto da Sergio Rubini, pittore nell'anima e ferroviere per necessità nella Puglia degli anni 60. Nella clip si fa riferimento, avete sentito, a un quadro, è quello che Ernesto sta dipingendo, una copia dell'autoritratto con bombetta di Cézanne, che sarà la ciliegina, dovrebbe essere la ciliegina sulla torta di una personale che una generosa e libertina ammiratrice, donna Valeria, che ha i tratti morbidi di Anna Falchi, gli sta organizzando. Ebbene, questo quadro sta letteralmente facendo impazzire Ernesto e chi gli sta intorno, a partire dalla moglie Franca, interpretata da Valeria Golino, che fa le acrobazie per riportare Ernesto sulla terra, per gestire il figlio Gabriele, per governare una casa di uomini che comprende anche il fratello Pinuccio, scapolo e donnaiolo, lo zio che ogni nipote vorrebbe avere, che magari ha anche avuto, interpretato da uno Scamarcio davvero in palla. Ernesto soffre per il provincialismo di chi non capisce la sua arte, a cominciare dal critico del suo paese, un vecchio professore trombone interessato solo a mantenere la sua presunta egemonia culturale e sociale attraverso la demolizione sistematica del lavoro degli altri. Ciò nonostante, Ernesto continua a pendere dalle sue labbra. Ernesto! Oh, avvocato, guarda, stai il professor. Ci siamo, Ernesto, bravo. Senti la bella notizia, senti. Sono riuscito a ottenere, stanno assente, dopo molte trattative, 30 righe sulla Gazzetta, in tutte per la tua mostra. Che ne dici? Ma non è contento. No, sono contento, ma dipende da quello che scrivete. Ernesto, guarda che 30 righe sopra la Gazzetta. Sono sempre 30 righe sopra la Gazzetta. Tu da dici grazie. Infatti, grazie, professore. È un'opportunità, veramente. Tu hai fatto seriamente il tuo lavoro? E come, avvocato? E io farò seriamente il mio. Non vogliamo svelarvi troppo perché dopo la delusione scatta la vendetta del candido Ernesto, un film sui talenti tarpati dal pregiudizio, quindi, ma anche su un'Italia di provincia un po' immobile, nella quale la scalata da un ceto sociale all'altro sembra praticamente impossibile, forse somiglia un po' anche all'Italia dei nostri giorni, una Puglia che continua a essere la miniera di sollecitazioni per il cinema di Rubini, e anche un film che ci consegna, forse fa finire di pagare a scamarcio il debito con la sua bellezza, e comincia finalmente a farci contare su un attore in più, un attore che ha aperto anche una porta importante su una strada che potrebbe essere quella della commedia, perché il suo personaggio ricorda un po' il Giannini della grande commedia italiana degli anni 70. Di nuovo insieme alla Rosa Purpurea andiamo avanti con la presentazione dei film che trovano la via della sala in Italia in questo fine settimana, per parlare di Christmas Carol. È un film tratto da un celebre racconto di Charles Dickens, ma soprattutto un film che fa fare ancora un passo avanti a questa ricerca di un'animazione tridimensionale, sì, ma anche... diciamo così, molto vicina all'antropologia, all'antropomorfo dell'uomo, una tecnica chiamata motion capture che serve proprio ad animare sostanzialmente le sembianze umane. Quindi Christmas Carol l'ha visto per noi la nostra Chiara Pizzimenti. Entrate al cinema, prendete posto, indossate gli occhiali e partite in volo sulla Londra di metà 800, addobbata per il Natale. Copritevi bene però, perché in sala cade la neve. Fantasia e realtà insieme, o meglio, tecnologia digitale e animazione in 3D, per raccontare un classico, Il canto di Natale di Charles Dickens e Christmas Carol del 1843. La storia è nota. L'avaro Ebenezer Scrooge odia il Natale, giornata di inutili spese e festeggiamenti. La sera della vigilia viene però visitato dal fantasma dell'ex socio, che paga, trascinando catene, gli errori fatti in vita. Che volete da me? Tu riceverai la visita di tre spiriti. Preferirei di no. Sono i Natali di passato, presente e futuro che gli mostreranno cosa è avvenuto, cosa avviene e cosa potrebbe accadere. Scrooge riuscirà a redimersi facendo trionfare il bene nel giorno di Natale. And your tears, goodness, hope and virtue. Robert Zemeckis firma la terza versione Disney del racconto. Dopo Il canto di Natale di Topolino, con il tirchio Zio Paperone, e Festa in casa Muppet con Michael Caine. Un'opera, quella di Dickens, che sul grande schermo è stata portata già una ventina di volte e in TV 50. Il padre di Forrest Gump e Roger Rabbit usa la performance capture già vista in Polar Express e La leggenda di Beowulf. Attori reali vengono trasformati in animazione grazie alla rielaborazione computerizzata dei loro movimenti e delle loro espressioni. È difficile riconoscere Jim Carrey sotto la maschera del vecchio Scrooge nei panni dei tre fantasmi, ma è sempre lui, affiancato dal gaudente nipote Colin Firth, dal povero contabile Gary Oldman e dal vecchio capo Bob Hoskins, il tutto in una Londra ricostruita sui quadri di Turner e con Dickens in persona a fare da sceneggiatore. Fra tutti, infatti, questo sembra essere il film che più alla lettera ripercorre il racconto dello scrittore, anche nei suoi lati più cupi, fino quasi ad arrivare all'horror, definizione che però non piace al regista. Feeling a sense of suspense or tension doesn't mean I'm presenting horror. It's just that, you know, I'm just winding the audience up a little bit because it's a ghost story. È una storia di fantasmi, dice Zemeckis, dunque deve fare paura. Il film però non coinvolge quanto ci si attende. Il freddo della neve scende un po' anche sulla pellicola, che si riscatta con gli effetti tridimensionali, capaci di catturare l'attenzione soprattutto dei più piccoli fra gli spettatori. Il film è bello perché Scrooge alla fine diventa buono. Perché è di Natale. Perché era avventuroso. Perché è stato divertente. Quando c'era i cavalli che andavano addosso al... come si chiama? A lui. I primi due spiriti sicuro. Poi un pochino la famiglia di Cratchit. Non so se i bambini riescono a capire il contenuto, però è molto carino. Per i bambini un po' più grandi, fanno fatica loro, per me di 7 anni, è un po' buio. E ti piace vedere i film in 3D con gli occhialini? Sì, perché ti vengono le sole cose. Sì, perché si vede praticamente dal vero, sembra che le cose ti vengano incontro. E questo era Christmas Carol, raccontato dalla nostra Chiara Pizzimenti e da tanti piccoli spettatori che lo hanno visto con lei. Noi cominciamo a giocare come da tradizione qui alla Rosa Purpurea con il nostro DVD game, con tre tracce misteriose di un film che dovrete indovinare. Anche questa settimana si tratta di un Blu-ray, quindi attrezzatevi se non siete ancora attrezzati in merito. Andiamo a sentire la prima traccia. Come dice il vecchio detto, occhio per dente, naso per mento, sedere per... È un vecchio detto, però non è che sia un granché. E questi sono i primi secondi di questo film misterioso, dovete indovinarlo e scriverci la vostra risposta alla Rosa Purpurea @radio24.it, corredandola del vostro indirizzo privato, perché non si sa mai, se sarete i più bravi e veloci del sabato e la domenica riceverete a casa il Blu-ray di questo film. Più tardi, un'altra traccia. Don't you... Sulle note dell'immortale Somebody to Love dei Jefferson Airplane passiamo a parlare di un'altra novità al cinema. A Serious Man, che segna il ritorno dei fratelli Coen un anno dopo Burn After Reading. Un film anomalo anche nella variegata produzione dei fratelli di Minneapolis. Un prologo strepitoso, forse la cosa migliore del film. In un villaggio polacco di inizio Novecento, due coniugi litigano che sembrano i Robinson, finché non irrompe un D-Book, un'anima posseduta, che dà quel tocco di surreale. Sembra che Chekhov abbia incontrato una sitcom, e da spettatore ti dici, speriamo che prosegua così. Invece no, il film va tutto da un'altra parte. Qualunque del Midwest, 1967, Larry Gopnik è l'uomo medio più medio che c'è, tanto medio da sembrare mediocre. Al figlio Danny, che fuma spinelli e sta per diventare grande col passaggio simbolico del bar mitzvah, alla figlia Sara, che passa il tempo fra la cura dei capelli e i soldi rubacchiati a papà per rifarsi il naso, ma soprattutto alla moglie, che lo lascia per l'assai più concreto Sea Abelman. Sul serio? Per evitare di trascendere, con l'avvicinarsi del bar mitzvah di Danny... Il bar mitzvah di un figlio? Sai, e io pensiamo che sia meglio che tu te ne vada di casa. Non avrebbe più senso se tu ti trasferissi da Sai. Larry. Larry? Sei faceto? E allora Larry va in crisi, perde fiducia, cade in depressione e va da uno, due, tre rabbini per cercare quel gancio in mezzo al cielo che gli impedisca di affondare. La prego, ho bisogno di aiuto. Io ho già parlato con gli altri rabbini, la prego. Non si tratta del bar mitzvah di Danny, mio figlio Danny. Il prossimo Shabbat, un avvenimento festevole, va tutto benissimo. Riguarda più me stesso. Io ho avuto un bel po' di guai di recente, problemi matrimoniali e professionali. Faccia lei, questa non è una richiesta frivola, questa è una serie. Io ho cercato di essere un uomo serio, ecco. Ho cercato di agire bene, essere un membro della comunità e crescere i... Danny, Sara, vanno entrambi a scuola, una scuola ebraica, una buona colazione. Danny va alla scuola ebraica, Sara non ne ha il tempo, lei per lo più si lava i capelli. Ma il gancio non c'è, come avete sentito, e Larry è a pezzi mentre sulla sua vita sta per abbattersi il più violento degli uragani. I temi non mancano, l'uomo che cerca Dio e non lo trova, forse perché lo cerca per motivi e nei posti sbagliati, la difficoltà di essere serious man ma anche di farsi amare, spesso le due cose sono addirittura antitetiche, la disgregazione della famiglia, Larry fallisce in tutte le sue missioni e diventa un uomo solo. Ethan Coen spiega come è stato costruito questo personaggio. The character, you know, that Michael plays in the movie is made up. Il personaggio interpretato da Michael nel film si basa su personaggi che noi conosciamo, gente a noi familiare, dato che lui è un accademico e i miei genitori erano entrambi accademici. Per cui noi abbiamo incontrato molti professori universitari. Abbiamo incontrato molti padri ebrei durante la nostra adolescenza. Questo fa di lui un personaggio familiare. So in that sense, you know, he wasn't an unfamiliar character. Great, gotcha.

In uno o due aspetti si può dire che il calcio unisca le persone. Voglio dire che ogni squadra è l'espressione di una comunità. La maggior parte dei team rappresenta una comunità ed è forse l'unica occasione in cui è permesso essere nazionalisti. Intendo il sentimento che si prova quando la propria squadra sta giocando. Il nazionalismo è in genere mal visto, politicamente parlando, ma è ammesso quando si tifa una squadra. Credo inoltre che sia un momento in cui le persone possono esprimere le proprie emozioni e trovano il coraggio per farlo. Durante la partita si passa dalla disperazione alla speranza, alla gioia del trionfo, alla tristezza. Se il film riesce a riportare tutto questo, sarà il film che ti ho detto. Quanto a Cantona vale per il suo omonimo Eric, il postino, ciò che Humphrey Bogart valeva per il Woody Allen di Provaci ancora Sam, ve lo ricordate? Ancora una prova ad attore consumato per l'ex numero 7 dei Red Devils, ma lui si schernisce. Ça, c'est après, c'est à chacun, c'est pas moi de... Non sta a me dire se sono o meno un attore, sta a ciascuno giudicarlo. Come non tocca ad un artista definirsi tale, ma è la gente che gli dà questo titolo. In più c'è chi dirà che è un artista e chi non sarà d'accordo, come quando si è davanti ad un quadro. Ci sono tante opere d'arte e quanti osservatori. Sono 12 anni che ho e vivo questa passione per il cinema, che continuo a girare, a lavorare su dei progetti, che continuo ad imparare anche, e la cosa mi piace molto. Ora sta alla gente giudicare se sono un attore oppure no. Non tocca a me dirlo. Se sono un attore o pas, c'est pas moi. Eric Cantona e Ken Loach alla Rosa Purpurea, alle loro voci per raccontare il mio amico Eric nei cinema italiani da questo fine settimana. Allora avete visto quale parterre de roi, insomma, ci sia al cinema: L'Uomo Nero di Sergio Rubini, Christmas Carol, A Serious Man dei fratelli Coen, Ken Loach, quindi il cinema d'autore rappresentato ai massimi livelli, e poi escono ancora altri film, sono davvero tanti, come sempre da queste parti della stagione, anche troppi per poterli raccontare tutti. Noi andiamo a questo punto a giocare ancora una volta con il DVD Game. Ascoltiamo la seconda traccia del film misterioso di oggi. Cosa? Non te ne puoi andare adesso? Lei ha lasciato la pista. C'è la regola numero 2. La regola numero 5 dice che si può ignorare la regola numero 2 se c'è di mezzo una femmina o eventualmente un cagnolino. E questi erano ancora 10 secondi di questo film, di questo Blu-ray, ve lo ricordo. La Rosa Purpurea @radio24.it è l'indirizzo di posta elettronica. Se avete già indovinato, noi, siccome i secondi erano pochi, vi li facciamo riascoltare. Cosa? Non te ne puoi andare adesso? Lei ha lasciato la pista. C'è la regola numero 2. La regola numero 5 dice che si può ignorare la regola numero 2 se c'è di mezzo una femmina o eventualmente un cagnolino. Ebbene, avrete un'altra possibilità più tardi per indovinare il film misterioso di oggi. Noi andiamo dall'Italia all'America, la nostra vetrina sul grande schermo a stelle e strisce con Micaela Bellisario, che ci presenta le novità in uscita oltreoceano. Presentato proprio venerdì sera, Everybody's Fine, il remake di Stanno Tutti Bene di Peppuccio Tornatore. Protagonista Robert De Niro. Micaela, raccontiamo un po' la storia. È la storia di Frank, un vedovo che si mette in viaggio per ritrovare i figli dopo essersi reso conto che l'unico legame avuto con loro era mediato dalla moglie. Succede tutto intorno a Natale. Lui si aspetta che i suoi ragazzi tornino a casa per il pranzo natalizio, invece uno a uno gli lasciano dei messaggi in segreteria per dire che non potranno venire. E a quel punto, ritrovandosi da solo, pensa che la cosa migliore da fare sia sorprenderli e andarli a trovare uno a uno. In questo passo del trailer sentiamo il momento in cui Robert De Niro ascolta nella segreteria telefonica proprio i messaggi dei figli. Dad, I can't get away this weekend. We're not gonna be able to make it this weekend. I'm sorry, Dad. They all canceled on me on the last minute, so now I'm gonna surprise them. I'm gonna see my son. Very good. What he does? Absolutely no idea. Thank you. Next. Ecco, Frank, lungo questo viaggio in America attraverso le vite dei figli, scoprirà ben presto che le esistenze fantastiche che gli avevano sempre raccontato alla fine non sono così favolose come sembrava. Nessuno in realtà fa quello che aveva sempre detto di fare. E Frank si rende conto che d'altra parte aveva sempre vissuto la sua vita con la moglie che mediava e pensava a tutto, e forse a volte chissà nascondeva le notizie come fa ogni mamma in ogni famiglia. In questo passo del trailer sentiamo allora le reazioni dei suoi figli e il disappunto di Frank, che si accorge di non essere mai andato più in profondità con loro e chiede ai suoi ragazzi in futuro di raccontargli tutto, anche le novità meno belle, perché come si sa la vita non è fatta solo di belle notizie o comunque situazioni positive, ma purtroppo anche di momenti tristi e momenti sfortunati. I don't know what it is with you kids. You always told your mother everything. You never told me anything. We'll tell you the good news and spare you the bad. Tell me the bad news as well as the good news from now on. Mom used to say, make your dad proud. And I know you're not proud of me. It's not true. Sometimes I pick up the phone to dial her number, and then I remember. Keep calling next time. The number's still the same and I'm still on the other end. Okay. Insomma, il regista Kirk Johnson non si è discoltato molto dal canovaccio scritto nel 90 da Tornatore, in un film che, ricordiamolo, insomma, proprio per onore di cronaca, che visto che di tempo ne è passato tanto, non fu proprio uno dei suoi più riusciti. Lo vedremo comunque in Italia nel 2010. Grazie a Michaela Bellisario. Ciao Franco e alla prossima settimana, e come sempre un saluto ai nostri ascoltatori. Di nuovo insieme alla Rosa Purpurea, nuovo cinema a casa mia, come l'abbiamo ribattezzato, il quarto blocco del nostro programma, perché cominciamo a rinchiuderci nel caldo delle nostre case, visto che fuori le temperature si stanno abbassando, e a cominciare a vedere qualcosina, a recuperare qualcosina di quel cinema che merita proprio sul nostro piccolo schermo, anche se il nostro invito a quella Rosa è ovviamente da sempre, da 10 anni a questa parte, quello di andare a consumare il cinema in sala, perché quella è la casa del cinema, ma insomma non possiamo farlo mica tutti i giorni. Allora eccoci qui con le nostre proposte televisive, come sempre con la redazione del settimanale Film TV, di cui tra l'altro voglio anche annunciare che è uscito in questi giorni l'annuario che appunto tutti gli anni mette insieme tutte le recensioni scritte dai colleghi di Film TV durante l'anno cinematografico, insomma una sorta di raccolta, di dizionario del cinema rivissuto appunto durante l'anno. E allora lo facciamo con piacere per questi amici che tutte le settimane con noi ragionano sulle scelte di televisione che aiuta il cinema. Qual è il film da vedere, rivedere, recuperare, videoregistrare questa settimana? Lo abbiamo chiesto ad Andrea Fornasiero. Ciao Franco, questa settimana volevo segnalare la prima visione assoluta in televisione di Ghost in the Shell, un film animato del 1995 di Mamoru Oshii, uno dei massimi animatori giapponesi in attività, tratto dal manga di Masamune Shirow, iniziato nell'89 e poi proseguito in almeno 2 serie. Si tratta di un film che ha segnato l'immaginario collettivo giapponese alla sua uscita, ma poi indirettamente anche quello occidentale, perché è stato uno dei punti fermi dei fratelli Wachowski nell'ideazione di Matrix. Infatti i titoli di testa di Matrix, che come noto appaiono questi caratteri verdi bizzarri che scorrono fino a formare i titoli di testa, appunto, sono praticamente identici a quelli di Ghost in the Shell, come un omaggio esplicito, ma in genere anche tutta l'ambientazione un po' cyberpunk ispirata ai libri di Gibson, così mischiata però a delle scene d'azione concitate, spettacolari, sparatorie e movimenti particolari di camera, anche queste in qualche modo erano già presenti in Ghost in the Shell, che però a differenza di Matrix lavora molto di più su un cyberpunk diciamo da fantascienza letteraria, dove appunto ci sono questioni sull'identità dell'uomo e della macchina meno fumose e un po' più concrete nella loro esplicazione filosofica. Quindi ecco, è un film decisamente importante che purtroppo non era mai andato in TV e è un piacere che c'ero approfitti diciamo dell'isola libera e felice di Rai 4 per proporlo oltretutto in prima serata senza tagli. E allora grazie ad Andrea Fornasiero, ricordiamo l'appuntamento per gli amici che vorranno vedere o registrare appunto Ghost in the Shell, Rai 4, quindi gratuitamente per chi ha il digitale terrestre, giovedì 10 dicembre alle 21:10, quindi in prima serata la prima assoluta TV di Ghost in the Shell di Mamoru Oshii. Siamo arrivati alla terza e ultima finestra aperta sul nostro DVD game, che poi è un Blu-ray game anche questa settimana. Andiamo ad ascoltare la traccia. Cos'è questo rumore? È il vento che ci sta parlando. E cosa dice? Non lo so, non lo parlo il ventoso. E questa è una battuta che già dovrebbe mettervi sulla giusta strada, ovviamente se conoscete il film. La Rosa Purpurea @radio24.it è l'indirizzo, ascoltiamola ancora una volta. Cos'è questo rumore? È il vento che ci sta parlando. E cosa dice? Non lo so, non lo parlo il ventoso. E questo era il terzo clip di questa settimana per quanto riguarda il DVD Game. Noi facciamo il consueto salto indietro di 7 giorni per ascoltare invece una delle tracce che avevamo seminato nella scorsa puntata. Conducila lontano, nel bosco. Trova un posto dove non passi nessuno, dove possa cogliere fiori selvatici. Sì, maestà. E là tu l'ucciderai. Eh beh, specchio specchio delle mie brame, era Biancaneve, il capolavoro d'animazione Disney, il primo film d'animazione della storia, il primo lungometraggio d'animazione della storia, un film strepitoso sotto il profilo pittorico, artistico, mi verrebbe quasi da dire recitativo se non si trattasse di disegni. L'hanno indovinato per primi e quindi riceveranno questo splendido Blu-ray messo a disposizione dalla Disney, Giampaolo Gallini di Rovoleto di Cadeo, provincia di Piacenza, e Fabrizia Cao di Milano. E allora noi, prima di sentire, anzi, facciamo così, sentiamo subito Claudio Poffi, che dovrebbe essere già in collegamento. Claudio, eccoci, Franco, eccoti qua, sì. Perfetto. Allora, sento prima volentieri la tua recensione tecnica del Blu-ray, perché poi abbiamo un grandissimo ospite, un esperto a livello mondiale di animazione Disney proprio, Brian Sibley, americano, che ci dirà la sua un po' sul fascino di questo film. Ma sentiamo prima Claudio. Sì, il film è del 1937, Disney spese all'epoca la cifra incredibile di 1,5 milioni di dollari, realizzò appunto questo in capolavoro interamente con mezzi artigianali, la Disney lo ha interamente restaurato, lo ha portato in alta definizione, esce questa unica edizione in alta definizione a 2 dischi Blu-ray più un terzo disco in DVD che propone comunque il film a definizione standard. La qualità è assolutamente ineccepibile sia sotto il profilo video che audio, non ho assolutamente nulla da eccepire se non ricordare agli appassionati che questo è assolutamente un prodotto che consacra definitivamente alla storia questo capolavoro senza tempo, e naturalmente sono tantissimi gli extra, grandissimi approfondimenti sulla realizzazione. Su tutti segnalo il commento audio proprio di Walt Disney, realizzato mettendo insieme vari interventi dell'autore nel corso del tempo, e un bellissimo dietro le quinte degli studios della Disney, una sorta di viaggio interattivo attraverso la produzione e proprio i primi lavori della casa Walt Disney. E allora andiamo a farvi ascoltare Brian Sibley, come dicevamo, grandissimo esperto di animazione e di animazione Disney dello specifico. È stato a Milano quando il film, il Blu-ray, l'uscita in Blu-ray di Biancaneve è stato presentato alla stampa. Abbiamo raccolto e vi facciamo ascoltare, preceduto da un po' di musica proprio tratta da Biancaneve, la sua valutazione sul fascino immortale, duraturo, 70 anni di storia quasi, di questo film. Sentiamo. Biancaneve e Sette Nani è un film veramente rivoluzionario. Il motivo per cui è così rivoluzionario e ha avuto tanta influenza nella storia del cinema d'animazione è che Walt Disney era deciso a fare qualcosa che nessuno aveva mai fatto prima. Adesso diamo per scontati i lungometraggi d'animazione, ma negli anni 70 esistevano soltanto i cortometraggi di animazione che duravano 7 minuti. L'obiettivo di Walt Disney fu invece quello di raccontare una storia nell'animazione, proprio come succedeva nel film con attori veri, esplorando tutte le emozioni, la tristezza, la gioia, la paura, l'ansia, e consentendo agli spettatori di identificarsi nei personaggi, così come facevano con gli attori veri, anche per un lungometraggio di animazione. Quindi è stato un film pionieristico che ha aperto la strada a molti film simili. E questo era Brian Sibley, esperto di animazione disneyana, qui alla Rosa Purpura per parlarci di Biancaneve. Noi andiamo avanti perché a questo punto dobbiamo ascoltare le recensioni, le due novità che ogni settimana vi proponiamo in DVD qui alla Rosa Purpura. Cominciamo con Mar Nero, un bel film italiano che è valso anche un premio a una straordinaria Virnalisi. Sentiamo. Lavoro in una fabbrica di porcellano, lavandino, bidet. E quanti guadagna? Una 100 euro per mese. Ai mese? 200.000 lire? Non è possibile. Sì, padrone dice che non vendono. E perché non cambia mestiere, lavoro? Ah, in Romania non cambia lavoro. A quella che tu hai ti tiene. Due donne vivono insieme nella stessa casa alla periferia di Firenze. Gemma è un'anziana da poco rimasta vedova, Angela, la badante, una giovane rumena da pochissimo in Italia. Entrambe sole, una convivenza forzata col tempo diventa amicizia e le due si aprono a un dialogo reciproco sempre più profondo. Un dramma toccante, ricco di spunti di riflessione su razzismo e pregiudizio. Il film arriva in DVD grazie al San Paolo Audiovisivi, film di Federico Bondi del 2008. La qualità è ottima sia sotto il profilo video che audio. Per gli extra segnalo 5 minuti con immagini di backstage e riflessioni da parte del regista. E questo per quanto riguarda allora Mar Nero. Noi a questo punto cambiamo film perché andiamo a parlare di qualcosa di sicuramente più ruvido, più d'azione. L'ultimo capitolo in ordine di tempo di una saga immortale come quella di Terminator, Terminator Salvation. Ascoltiamo. Ho la possibilità di infiltrarmi a Skynet e salvare i prigionieri. Mi dia questa opportunità. No, assolutamente no. Non è il momento di una missione di salvataggio. Quello che mi chiedi può far saltare l'intera operazione. Skynet ha in mano Kyle Reese. Allora è il suo destino. No, è il nostro destino. Io lo devo salvare. Quel ragazzo è la chiave. La chiave per il futuro, per il passato. E senza di lui perderemo ogni cosa. No, attieniti al piano. Se ci atteniamo al piano, siamo morti. Siamo morti, chiaro? Dopo l'olocausto nucleare scatenato dalle macchine, ritroviamo il leader carismatico della resistenza umana, John Connor. Siamo nel 2018, in lotta contro Skynet, il network di intelligenza artificiale che ha dichiarato guerra al genere umano. È in bilico verso l'estinzione, l'umanità ha poche chance di ribaltare la situazione a proprio vantaggio e tutto è legato a una scoperta di un sistema per interferire nella comunicazione tra le macchine, rendendole inoffensive. E sarà proprio un prototipo di robot Terminator, in parte umano, ad aiutare Connor nell'impresa. Action fantascientifico, adrenalinico, avvincente, che arriva grazie a Sony Pictures Home Entertainment in DVD, ma soprattutto in Blu-ray alta definizione. Proprio grazie attraverso l'alta definizione è possibile ritrovare questo travolgente spettacolo della sala cinema e l'opportunità di visionare tra l'altro il film in una seconda versione denominata Extended Cut, con 3 minuti di sequenze inedite. Dal punto di vista video e audio assolutamente niente da eccepire, tutto assolutamente ad altissimo livello. Tra i tanti extra per il Blu-ray da non perdere, la visione dell'opera con numerosi dati e informazioni sulla lavorazione, dove l'immagine è posizionata del film sulla sinistra dello schermo, a destra c'è un secondo riquadro per gli effetti speciali e in mezzo il regista MCG che ferma e riprende la visione per avere il tempo di dare spiegazioni, una sorta di vera e propria lezione di regia. Grazie a Claudio Pofi, appuntamento la prossima settimana. Io devo solo rettificare una notizia, per un lapsus ho detto che Mar Nero era interpretato e aveva vinto il premio Virnalisi, in realtà era Ilario Chini. Diamo a Ilario Chini quel che è suo, il premio a Locarno per Mar Nero. Appuntamento la prossima settimana qui la Rosa Purpurea. Si chiude qui il nostro settimanale di cinema. Il sabato alle 18 e la domenica alle 9 del mattino saremo ancora con voi.